Non ci resta che lasciarci invaghire da questo canto d'amore alla vigna, perché è un canto appassionato che nel libro di Isaia passa come il canto della vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna e che io non ho fatto? C'è una passione in questo canto d'amore, come c'è una passione nel padrone della vigna del Vangelo. E l'immagine è trasparente per questa vigna che è Israele, che siamo noi. Che cosa Dio doveva fare di più? E quando Dio dice queste parole, sente dentro una passione vibrante. Faccio un'osservazione. Occorre uno sforzo per ricollocare la parabola nel contesto in cui la pronuncia Gesù. Se la togliamo da lì è difficile, si può navigare. Egli parlando ai discepoli e ad altri credenti di Israele pone l'accento su quella vicenda che attraversa ogni religione, ogni singolo credente di qualsiasi religione, cioè la possibilità di rifiutare gli inviti, gli affetti, i messaggi di Dio, che si fa sentire in mille maniere. Una grande pazienza forse ci fa giungere a coglierne il significato. C'è un passaggio del profeta Ezechiele, no, del profeta Geremia, che dice: da quando i vostri antenati uscirono dall'Egitto fino ad oggi, ha sempre continuato a mandare i suoi servi, i profeti, ma nessuno mi ha ascoltato, nessuno ha prestato attenzione, anzi, siete diventati ribelli più dei vostri antenati. Parole dure di Matteo alla fine della parabola: sarà tolto il regno e sarà dato un popolo che ne farà frutti. Faccio una seconda considerazione. C'è un evento nella descrizione della Bibbia che è unico: il patto di alleanza tra Dio e l'umanità. È un evento che sta a fondamento della fede. Ora, la Bibbia usa diverse immagini per descrivere questo patto. Ne cito due: l'immagine dello sposo e della sposa, e poi l'immagine della vigna che il padrone ha costruito con immenso amore, ha piantato, ha curato, scavò per il divorzio e così via. E rifletto. Se la storia degli uomini, siamo anche noi dentro qui, forse abbandonati a se stessi, il bene e il male, il dolore e la grazia, la giustizia e l'ingiustizia, scriverebbero loro lo stesso linguaggio, lo stesso bilancio, o sarebbero fra i giusti a fare i consuntivi, i poster? Ma di fatto noi viviamo la nostra esistenza pensando a camminare dentro a questo fatto, a questa alleanza. Siamo la vigna. Provo a spiegare con degli esempi. I gesti di due persone che si amano non hanno soltanto il senso che portano in sé, la manifestazione, ma viene attribuito anche un significato. E questo significato viene dato dalla intenzione con cui vengono compiuti. Non siamo dei semplicioni quando amiamo. Così la giustizia e l'ingiustizia non sono soltanto forme da riferire alla coscienza morale, risponde a delle leggi. Sono o non sono una risposta al dialogo con Dio. Se nella nostra vigna non c'è giustizia, la nostra fede avverte un di più di iniquità. La storia del popolo di Dio è tutta agitata da questa tensione che viviamo anche noi oggi. Da una parte la promessa di Dio, che ha il suo punto più importante nel fatto che la crescita della creazione, voi immaginate tutto il discorso delle scoperte, della scienza, l'umanità usufruisce armonicamente, cioè potrebbe offrire, vivere armonicamente questa pace di un godimento. Dall'altra parte questo popolo, che vivendo e avendo ricevuto la promessa, fa di quella elezione un affare di privilegio. Magari anche di dominio. Pensate a quello che sta avvenendo. In nome di Dio abbiamo fatto, stanno facendo le guerre. Ultima cosa. Vi ho stufato un po' stamattina. Questi grossi processi che avvengono solo all'esterno, no? Ma anche all'interno delle coscienze. Voglio dire, la nostra coscienza radicata dentro il tessuto dei fatti della storia porta con sé le stesse fratture, le stesse lacerazioni. C'è qualche complicità con le deviazioni e le storture dell'annuncio del Regno di Dio. Se leggiamo il senso del patto di Dio uomini, ci ricordiamo subito dell'amore con cui cui Dio ha creato l'uomo. L'uomo dell'alleanza è colui che si mette al servizio dell'uomo e poi di Dio. Notate, prima dell'uomo, poi di Dio. Ora è l'amore per l'uomo il segno autentico della fedeltà al padrone della vigna. E scusate se sono stato un po' più lunghino. Gloria a Dio nell'alto del cielo. Grazie a te, Signore.